Quando si muove nelle fosse oscure, si nutre di morti, estreme sbatte di tutti, non c'è alternativa. Non si può essere buoni in un mondo cattivo. Brucia, brucia, brucia, brucia, brucia, brucia. Brucia, brucia, brucia, brucia, brucia, brucia. Corro di lascia la infetta, tanto peste, angelo, alza la spada, infitta il nemico, rata corre, non è buono, nasce cattivo, sono cattivo, vive cattivo, ero e sono. Nasco dal culto potest, nasco nelle foglie vigoli, sono di quel luogo. Temo il presente, odio il futuro, fanculo al passato e brucia, brucia, brucia, brucia, brucia, brucia, brucia, brucia, brucia, brucia, brucia, brucia, brucia.